Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Da quarto al Volturno, Noterelle di uno dei mille, di Giuseppe Cesare Abba. Ho fatto un giro per la città. L'hanno piantata quassù che una casa si regge sull'altra e tutte paiono incamminate per discendere giù da oggi a domani. Avessero pur voglia di sbarcare i saraceni, Salemi era al sicuro. Vasta, popolosa, sudicia, le sue vie somigliano colatoi. Si pena a tenersi ritti. Si cerca un'osteria e si trova una tana, ma i frati, oh, i frati, gli avevano belli i conventi, e questo dov'è la mia compagnia è anche netto. Essi se ne sono andati. Gli abitanti, non scortesi, sembrano impacciati se facciamo loro qualche domanda. Non sanno nulla, si stringono nelle spalle o rispondono a cenni, a smorfie. Chi capisce è bravo. Salemi, 14 maggio. Il generale ha percorso la città a cavallo. Il popolo vede lui e piglia fuoco. Magia dell'aspetto o del nome, non si conosce che lui. Il generale ha assunta la dittatura in nome d'Italia e Vittorio Emanuele. Se ne parla e non tutti sono contenti, ma questo sarà il nostro grido. Alle cantonate si legge un proclama del dittatore. Egli si rivolge ai buoni preti di Sicilia. Un retore ha notato che preti buoni sarebbe stato meglio detto. Le squadre arrivano da ogni parte, a cavallo, a piedi, a centinaia, una diavoleria, e hanno bande che suonano d'un gusto. Ho veduto dei montanari armati fino ai denti, con certe facce sgherre e certi occhi che paiono bocche di pistole. Tutta questa gente condotta da gentiluomini ai quali obbedisce devota. Piove di rotto. Del nemico notizie diverse o contraddittorie. Sono 4.000, no, 10.000, con cavalli e cannoni. Si fortificano sui tali monti, no, sui tali altri, si avanzano, si ritirano rapidamente. Questa notte staremo ancora qui e intanto finiranno di allestire i carri per la nostra artiglieria. Salemi, 15 maggio, 5 ore antelucane. Margarita e Bozzani, lunghi e distesi lì su d'un tappeto verde avuto non so da chi, dormono ancora. Raccuglia, il buon vecchietto palermitano che non parla mai, si allaccia la calzatura al lume della mia candela. Torna dall'esilio in nostra compagnia come un popolano fuoriuscito del Medioevo. Sergente Raccuglia, che tempo avremo oggi? Bisognerà vedere il generale in faccia, ma sarà bello, perché vedete là? Gatti? Si riavvia i capelli, sempre lindo e attillato, lui. Lì, fuori dalla porta, due milanesi stavano ragionando dei fatti nostri, uno più dottore dell'altro, a dimostrare che sono seri, assai, da tutte le parti. Nemico numeroso, provveduto di tutto. Noi, armi pessime, munizioni poche, un 15 cartucce per ciascuno, gli insorti peggio armati di noi. «Ehi!» tuonò un vocione dal corridoio. «Che ci siete venuti per fare, codesti conti?» I due si tacquero. «Sono alla sveglia, e Simonetta viene a dirci che si parte, gran giovane, Simonetta. Non si cura di nulla per sé, non vive che per gli altri. V'è una guardia da fare? Simonetta si offre. Un servizio faticoso? Eccolo pronto, lui, gracile e gentile. Si distribuisce il pane e gli si presenta l'ultimo a pigliare il suo. Ha lasciato a Milano il padre vedovo e solo. Fra minuti si parte. Il nemico è davvero a 9 miglia. Abbiamo riposato 2 giorni e 2 notti su quest'altura, tra questa gente povera e rozza. Chissà dove dormiremo stasera. I carri per l'artiglieria sono fatti, la colubrina allunga la sua gola, il corpo dei cannonieri è formato. Sono quasi tutti ingegneri. Maggio, 11 ore ante Lucane, sui colli del pianto romano. Un pensiero a casa, poiché tutto è pronto. I nostri cannoni sono laggiù, piantati sulla strada consolare a sinistra. Eccolo là, il nemico. La montagna rimpetto a noi ne è gremita. Saranno circa 5.000 uomini. Noi siamo scaglionati per compagnie. Il generale da quella punta osserva le mosse dei nemici, fra le nostre posizioni e le loro. È una pianura non vasta ed incolta. La bandiera sventola sul poggio più alto, in mezzo a noi. Il sottotenente che la porta mandò a me dal generale, e il generale mi mandò a lui, comandando: «Ditegli che si porti sul poggio più alto con la bandiera e che la faccia sventolare». Dio, con quale voce me lo disse! 16 maggio, dal convento di San Vito sopra Calatafimi. Sarà bello se camperò a rileggere fra molti anni questi scorpi. Avessi avuto tempo, da ieri mattina ne avrei fatto 100 pagine. Tutta Salemi era fuori a salutarci. Benedetti, benedetti! E quando da piede la discesa mi volsi a guardare in su, tesi le braccia alla città e a quella gente, che avrei voluto stringere al petto tutto. Venivano giù le nostre compagnie di passo allegro e cantando. Garibaldi, ad una svolta della via, veduto dal basso, grandeggiava sul suo cavallo nel cielo, in un cielo di gloria da cui pioveva una luce calda che insieme al profumo della vallata ci inebriava. E con noi, giù dal monte, venivano le squadre dei siciliani, una processione che non vidi finire perché la mia compagnia si inoltrò per la campagna, bella, sempre più bella, sino al villaggio di Vita, dove ci incontrammo con le nostre guide, che venivano indietro di mezzo trotto. Avevano scoperto il nemico. Non vi era che da salire il colle, l'appresso, e l'avremmo avuto in faccia. Intanto la gente di Vita fuggivano portando le masserizie, trascinando i vecchi e i fanciulli, un pianto. Attraversammo il villaggio attristati, e quella povera gente ci guardava, ci faceva cenni di compassione, ci diceva: «Meschini!» Dopo breve tratto sostammo, e allora vidi la nostra bella bandiera portata al centro della settima, quel centinaio e mezzo di giovani, quasi tutti dell'università di Pavia, fior di Lombardi e di Veneti, la compagnia più numerosa e più bella. A Giuseppe Garibaldi, gli italiani residenti in Valparaiso, 1855. Lessi queste parole tra punte a caratteri grandi d'oro su d'un lato della bandiera. Sull'altro trionfava l'Italia, figurata in una donna augusta che, rotte le catene, sorge ritta su di un trofeo, cannoni, schioppi, tutto oro e argento. Io contemplava la bandiera pensando che in quelle terre lontane dove fu fatta tra quei patriotti donatori, vive un fratello del padre mio. E intanto vedeva un gran correre di ufficiali e di guide. Poi comparve il generale. Le trombe squillarono, lasciammo la strada consolare, ci mettemmo per i campi e su per la collina brulla, una compagnia incalzando l'altra. Di lassù scoprimmo il nemico. Il colle in faccia sfolgorava tutto armi. Pareva coperto di 10.000 soldati. Come? Calzoni rossi. I napoletani hanno già i francesi con loro? Sclamarono alcuni sdegnati, vedendo il rosso nelle file nemiche. Ma i siciliani che udirono li quietarono, rispondendo che anche gli ufficiali napoletani portano calzoni rossi. ci ponemmo a giacere ed erano quasi le 11. Mi parve che fossimo stati a guardarci coi regi pochi minuti, eppure la prima schioppettata non fu tratta che all'1:30 dopo mezzodì. I cacciatori napoletani, scesi lunghi lunghi giù per quelle filiere di fichi d'India, tirarono primi. «Non rispondete! Non rispondete al fuoco!» gridavano i capitani. Ma le palle dei cacciatori passavano sopra di noi con un gnaulio così provocante che non si poteva stare fermi. Si udì un colpo, un altro, poi fu suonata la diana, poi il passo di corsa. Era il trombetta del generale. Ci levammo, ci serrammo e precipitammo in un lampo al piano. Là ci copersero di piombo, piovevano le palle come gragnuola e due cannoni dal monte già tutto fumo cominciarono a trarci addosso furiosamente. La pianura fu presto attraversata, la prima linea di nemici rotta, ma alle falde del colle chi guardava in su? Là vidi Garibaldi a piedi, con la spada inguainata sulla spalla destra, andare innanzi lento e tenendo d'occhio tutta l'azione. Cadevano intorno a lui i nostri, e più quelli che indossavano camicia rossa. Bixio corse di galoppo a fargli riparo col suo cavallo e tirandoselo dietro alla groppa gli gridava: «Generale, così volete morire?» «Come potrei morire meglio che pel mio paese?» rispose il generale, e scioltosi dalla mano di Bixio tirò innanzi severo. Bixio lo seguì rispettoso. In quel momento uno dei nostri cannoni tuonò dalla strada. Un grido di gioia da tutti salutò quel colpo, perché ci parve di ricevere l'aiuto di 1000 braccia. «Avanti, avanti, avanti!» Non si udiva più che un urlo, e quella tromba, che non aveva più cessato di suonare il passo di corsa, squillava con angoscia come la voce della patria pericolante. Il primo, il secondo, il terzo terrazzo, su pel colle, furono investiti alla baionetta e superati. Ma i morti e i feriti, che raccapriccio! Mano a mano che cedevano, i battaglioni regi si tiravano più in alto, si raccoglievano, crescevano di forza. All'ultimo parve impossibile affrontarli più, e erano tutti sulla vetta, e noi intorno al ciglio, stanchi, affranti, scemati. Vi fu un istante di sosta. Non ci vedevamo quasi tra le due parti. Essi raccolti là sopra, noi tutti a terra. Si udiva qua e là qualche schioppettata. I regi rotolavano massi, scagliavano sassate, e si disse che persino il generale ne abbia toccata una. A quell'ora mancavano già dei nostri molti, che intesi piangere dai loro amici, e vidi là presso, tra i fichi d'India, un giovane bello, ferito a morte, sorretto da due compagni. Mi pareva che si volesse lanciare innanzi ancora, ma udii che pregava i due fossero generosi coi regi, perché anch'essi italiani. Mi sentii negli occhi le lacrime. Già tutta l'erta era ingombra di caduti, ma non si udiva un lamento. Vicino a me, il Missouri, comandante delle guide, con l'occhio sinistro tutto pesto e insanguinato, pareva porgesse l'orecchio ai rumori che venivano dalla vetta, donde si udivano i battaglioni muoversi pesanti e 1000 voci, come fiotti di mare in tempesta, urlare a tratti «Viva lo re!». Frattanto i nostri arrivavano a ingrossarci, rinascevano le forze, i capitani si aggiravano tra noi confortandoci. Sirtori e Bixio erano venuti a cavallo fin lassù. «Riposate, figliuoli, riposate un altro poco», diceva il generale. «Ancora uno sforzo e sarà finita». E Bixio lo seguiva per le file. In quella il sottotenente Bandi veniva a salutarlo, lì, per cadere sfinito. Non ne poteva più. Aveva toccate parecchie ferite, ma un'ultima palla gli si era ficcata sopra la mammella sinistra e il sangue gli colava giù a rivi. «Prima che passi mezz'ora sarà morto», pensai. Ma quando le compagnie si lanciarono all'ultimo assalto contro quella siepe di baionette che abbagliavano, stridevano, sì che pareva di averle già tutte nel petto, tornai a vedere quell'ufficiale fra i primi. «Quante anime hai?» gli gridò uno che deve essergli amico. Egli sorrise beato. Il grande, supremo Cozzo avvenne mentre la bandiera di Valparaiso, passata da mano a mano a schiaffino, fu vista agitata alcuni istanti di qua e di là in una mischia stretta e terribile, e poi sparire. In quel momento i regi tiravano l'ultima cannonata, fracellando quasi a bruciapelo un sacchi pavese, e fu da quella parte un urlo di gioia perché il cannone era preso. Poi corse voce che il generale era morto e Menotti, ferito nella destra, correva gridando e chiedendo di lui. Elia giaceva ferito a morte. Schiaffino, il Dante da Castiglione di questa guerra, era morto e copriva la terra sanguinosa con la sua grande persona. Quasi sulla vetta, vicino alla casina, mentre io passava, riconobbi ai panni più che al viso il povero Sartori. Certo era morto fulminato perché 5 minuti prima lo avevo visto salire e mi aveva salutato a nome. Giaceva sul lato sinistro, tutto attrappito e coi pugni chiusi. Era stato ferito nel petto. Caddi sopra di lui, lo baciai e gli dissi addio. Negli occhi spalancati, nella fisionomia spenta, gli era rimasto come un desiderio di respirare un'ultima fiatata di quell'aria di guerra. Mantenne da prode la sua parola di Talamone. E quanti conoscemmo Eugenio Sartori da Sacile. Parleremo a lungo di lui. I napoletani morti. Che pietà a vederli. Morti di baionetta molti. Quelli che giacevano sul ciglio del colle quasi tutti erano stati colti nel capo. Là un mostriciattolo che ai panni mi parve un villano di queste parti inferociva su di uno di quei morti. «Uccidete l'infame!» urlò Bixio e spronò su di lui con la sciabola in alto. Ma il feroce scivolò fra le rocce e disparve più bestia che uomo. Macchiette nel quadro grande, veggo quei francescani che combattevano per noi. Uno di essi caricava un trombone con manate di palle e di pietre, poi si arrampicava e scaricava a rovina. Valorosi quei monaci, tutti fino all'ultimo che vidi, ferito in una coscia, cavarsi la palla dalle carni e tornare a fare fuoco. Durante la battaglia, sulle alte rupi che sorgevano intorno a noi, si vedevano turbe di paesani intenti al fiero spettacolo. Di tanto in tanto mandavano urli, che mettevano spavento ai comuni nemici. Quando questi cominciarono a ritirarsi, protetti dai loro cacciatori, rividi il generale che li guardava e gioiva. Li inseguimmo un tratto. Disparvero in una fondura, riapparvero fuori di tiro, nella montagna, in faccia, seguiti da un centinaio di loro cavalli che, stati in agguato sino a quel momento, li raggiunsero a briglia sciolta. Dal campo stemmo a vedere la lunga colonna salire a Calatafimi, grigia lassù a mezza costa del Morite grigio, e perdersi nella città. Ci pareva miracolo avere vinto. Si mise un vento freddo gelato, ci coricammo. Era un silenzio mestissimo. Si fece notte in un momento ed io, con Airenta e Bozzani, ci addormentammo in un campicello di grano, accarezzati dalle spighe curve sui nostri corpi. Stamane, quando suonarono la sveglia, rompeva appena l'alba, ma qualche allodola cantava, già alta nell'aria. Ora di qui io veggo il colle quieto e deserto. Ieri fin le pietre parevano là vive ad aiutarci. I nostri morti che giacciono su quei dossi sono più di 30. Li ho quasi tutti dinanzi agli occhi, come erano 2 giorni or sono, baldi, confidenti, allegri, ma un d'essi mi mette non so che sgomento nell'anima. Quell'ufficiale che vidi a Novi, che rividi a Salemi e non rivedrò mai più. Tramonta il sole. Giù nella città le bande empiono l'aria di suoni. Mi narrano che vi fu cerimonia per la benedizione del dittatore, fatta da un frate che ci segue fin da Salemi. Io non discenderò più di qui. Non mi staccherò da questa bella veduta finché non sia notte. In quel fitto di boschetti laggiù veggo Alcamo. Il golfo di Castellammare chiude la scena e par che sfumi nel cielo libero al desiderio che vi si sprofonda. Quell'acqua lontana hanno un sorriso di promessa in cui l'anima si confonde, come negli occhi di una cara fanciulla. Stasera leggerò alla compagnia l'ordine del giorno. L'ho trascritto nella cancelleria municipale di Calatafimi, dove il capitano Cenni tempestava rabbioso, non so perché. Leggerò: soldati della libertà italiana, con compagni come voi io posso tentare ogni cosa. Che grido quando la compagnia udirà quest'altro passo? Le vostre madri usciranno sulla via, superbe di voi, con la fronte alta e radiante. Veggo su per l'erta il colonnello Carini, che se ne viene a cavallo di passo allegro. Che si parta? Da Calatafimi a Palermo, Alcamo, 17 maggio, sulla soglia di una chiesetta quasi in riva al mare. Da Calatafimi a qui fu una camminata allegra per campagne fiorenti, ma dappertutto vi era traccia della sconfitta che facemmo toccare i regi. Zaini, berretti, bende insanguinate buttate lungo la via. All'alba partendo si cantava, poi tra per quella vista e per il sole che si alzò a schiacciarci, si tacque e si tirò innanzi come ombre. Verso le 10 ci imbattemmo in certe belle carrozze mandate ad incontrarci come gran signori. Alcamo era vicina. Nelle carrozze vi erano gentiluomini lindi e lucenti che fecero le accoglienze al generale, mentre allo sbocco dei sentieri si affollavano dei campi molte donne campagnuole, confidenti e senza paura di noi. Alcune si segnavano devotamente, una ne vidi, con due bambini sulle braccia, a inginocchiarsi quando il generale passò. E uno dei nostri ricordò le trasteverine d'11 anni or sono, che lo chiamavano il Nazareno. Entrammo in Alcamo alle 11. È bella questa città, sebbene mesta, e all'ombra delle sue vie pare di sentirsi investiti da un'aria amoresca. Le palme ispiratrici si espandono dalle mura dei suoi giardini, ogni casa pare un monastero, un paio d'occhi balenano dagli alti balconi. Ti fermi, guardi, la visione è sparita. Fummo in cinque da un signore che ci volle a forza in casa sua, e vi desinammo. Che gentilezza d'uomo in quest'isola solitaria, ma che ingenua ignoranza delle cose d'Italia. Egli non ci tenne nascoste le sue figliole, che ci guardavano ansiose e ci parlavano come a conoscenti antichi. «Di dove siete?» chiedeva il loro babbo a De Lucchi. «Genovese. E voi?» volgendosi a Castellani. «Da Milano». «Ed io da Como», rispondeva senza aspettare d'essere interrogato Rienti, che ha la testa come uno di quegli angeloni ricciuti e paffuti che si vengono scolpiti con l'ali aperte ai corni degli altari. «Che bei paesi devono essere i vostri! Ma perché vi siete vestiti così da paesani? Via, dite la verità, siete soldati piemontesi, no? E allora come avete fatto a vincere tanti napoletani? Passarono di qui, che era una pietà a vederli. Non arriveranno a Palermo la metà!» Poi il discorso cadde sulla guerra dell'anno scorso. Quel signore pareva nato ieri. Credeva appena che Vittorio Emanuele fosse davvero al mondo. Intanto si era bevuto e qualcuno menzionò Ciullo d'Alcamo e la dolce canzone, e si parlò anche di Bari, di Puglia e della sfida di Barletta. L'ospite trasecolava a sentirci parlare di tante cose. Non ci voleva più lasciare uscire, e quando potemmo andarcene senza disgustarlo, le sue figliuole ci porsero la mano. Baciammo rispettosi e timidi e ce ne venimmo via, con un po' di scompiglio nel cuore. Il tuono brontolava cupo di là dai monti. Tutti si affollavano giù al mare, credendo fosse il rombo del cannone. «Palermo è insorta! Corriamo a Palermo!» Ma poi sopra i monti si levarono certi nuvoloni scuri, un temporale che svanì. Si diceva misteriosamente dall'uno all'altro che il generale ha perduto la speranza di riuscire contro i 30.000 soldati che il Borbone ha nell'isola, che la nostra colonna sarà disciolta, che ognuno sarà lasciato libero di cavarsi come potrà da questo passo. L'annunzio fu un lutto, ma era una falsa voce o forse un gioco che ci viene dal nemico. ...18 maggio. Tra Partinico e Burgeto. Era meglio rompersi il petto, ma varcare la montagna, scansare Partinico. Si saliva all'erta su cui sorge il villaggio, e il po' di vento che rinfrescava l'aria ci portava già a ondate un fetore insopportabile. Appena in cima ci affacciammo alla vista della città, arsa gran parte e fumante ancora dalle rovine. La colonna da noi battuta a Calatafimi s'azzuffò con gli insorti di Partinico, gente eroica davvero. Incendiato il villaggio, i borbonici fecero strage di donne e di inermi di ogni età, cadaveri di soldati e di paesani, cavalli e cani morti e squarciati fra quelli.